dici cosa c'è che non va. Pensi ancora a quella storia là, lo so già, si fatica a stare soli. Sai che rimango qua finché vuoi, io capisco bene come stai. Fossi in te, credo che reagirei. Che consigli vuoi da me? Se poi fai quel che vuoi te, sai che mai ti direi vada a lei. Oh, oh, se una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare se lo vuoi. Se l'umore va giù, se non c'è più, guarda che non esiste solo lei, devi muoverti un po'. C'è chi non dice no, ti do una mano io, ma già so quando capita un momento no, dentro hai un'angoscia che rompe. E ti apriresti il petto poi per mostrare in quale posto lei. Non sai mai cosa fai, ma sai che la vuoi. Se una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare se lo vuoi. Se l'umore va giù, se non ce la fai più, guarda che non esiste solo. Devi muoverti un po', oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'è chi non dice no, oh, oh, oh, oh. E se ti ha lasciato addosso un male fisico, qua ci vuole solo un po' di senso pratico. Guarda che...